Mi piace non possedere alcun oggetto, essere a casa dovunque mi trovo e smetterla di dire le bugie. E poi così posso allenare le buone maniere che devo obbligatoriamente avere, ma che non sono mai state il mio forte. Devo ridurre al minimo il fastidio che posso dare, e questo è un bell'esercizio. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Sono le 16:08, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia e sono qui. Fabri Fibra è tanta roba. Questa roba è venuta fuori ieri perché dall'amico che mi ospita, Luca, che però solo per oggi, per stasera, Luca, poi basta, te lo dico ufficialmente, domani vado da Simona, preparati. Ieri, mentre eravamo a casa da lui e abbiamo detto delle cose, io purtroppo ne ho dette diverse, anche poco piacevoli, però d'altra parte questo è quello che ho deciso di fare, dire sempre la verità. Stavamo guardando Miss Italia ieri, io e lui, tra le altre cose che facevamo a casa, e, oltre a cenare, chiacchierare, e lui è uscito con questo modo di dire che va di moda ultimamente, questo modo di dire qui. Fabri Fibra è tanta roba, tanta roba. Non Fabri Fibra, tanta roba. Quanti lo dicono? Lo dice perfino come si chiama quello del Sky? Caressa, pure Caressa dice tanta roba perché uno calcia in porta. Dimmi tu. Tanta roba. Proprio è una roba che detesto. E guarda, lo detesto quasi quanto il termine, mi togli la base che non c'entra, a sto giro. Avete presente quelli che dicono a sto giro abbiamo un po' cambiato le cose? Ma quale giro? O c'è oggi o c'è ieri a sto giro? Ma con Alessandro Marcotulli di 9 in punto stiamo stilando proprio un elenco di tutte le cose che ci danno fastidio. È quasi un voto che abbiamo fatto, giusto Alessandro? Cioè io ho fatto un voto, tu proprio di voti ancora niente. Me la rimetti l'ultima volta questa che mi piace? Fabri Fibra è tanta roba. Insomma, tanta roba, anche Miss Italia è tanta roba, però devo dire. Soprattutto sto tatuaggio che c'ha qua. E mi sono accorto solo stamattina che è compaesana di Bonini. Non solo è De Foligno, ma è proprio di. Mi diceva prima Tiziano, è del Giotti. Del rione Giotti, che è dove è originario lui. Obiettivamente, Foligno è una città un po' sfigata, Nel senso che, no, ti spiego perché Tiziano, non guardarmi subito male, però in un posto come l'Umbria, dove è pieno di città meravigliose, città come Foligno e Terni, ad esempio, un po' sfigurano, perché sono un po'... 800240024 349 238 6666, perché oggi cambio casa, non cambio casa solo perché ho detto ufficialmente a Luca che la definizione tanta roba non mi piace, ma perché è arrivato il momento di andarmene e perché effettivamente ci sono dei giorni in cui capisci che se sei ospite te ne devi andare. Lo devo fare perché ho letto l'altro giorno un messaggio di un mio ascoltatore che mi chiedeva proprio per quale motivo non mi compravo una casa, questa è una bella domanda. E soprattutto come accettavano i miei amici la mia ospitalità. L'accettano bene, però appunto, dopo un po' si cambia casa. A proposito di cambiare casa e a proposito di essere galanti quando si è ospitali, ho scoperto che ci sono delle vere e proprie regole per l'ospitalità. E la trovate Vittoria Mussini. Tra l'altro Vittoria Mussini, che è sempre splendida, oggi c'ha questo problema al torcicollo, quindi non riesce a girare la testa, proprio il giorno prima di partire per le ferie. Proprio il giorno stesso, oggi parte per le ferie. Il galateo dell'ospitalità dice che l'ospite dovrà attenersi alle comodità del padrone di casa. Di conseguenza sarebbe buona educazione quella di scegliere degli orari di arrivo e di partenza che non disturbino eccessivamente il padrone. Deve tenere in perfetto ordine la camera. Deve sistemare il letto la mattina e togliere tutti gli abiti in bella vista. Riporre tutto nell'armadio, se vi è stato concesso, altrimenti effettivamente entrare in un armadio che non è tuo. Nei cassetti oppure in valigia ripiegare tutto. Se avete biancheria da lavare, fatelo da voi o portatela in lava biancheria. Chi è che l'ha scritta sta roba? Non presentate la biancheria sporca alla padrona di casa. 800240024 349 238 6666. Oggi io ho bisogno di persone che sono ospiti come me in questo preciso momento, magari lo sono da lungo tempo, o persone che hanno vissuto semplicemente lungamente ospiti, o che magari hanno avuto anche, perché poi c'è sta roba che dice ospite è la stessa roba, chi ospita è chi sta ospitato. Insomma, io ho bisogno di accorgimenti per capire come non farmi cacciare da casa dei miei amici non prima di una settimana almeno, visto che cambiare casa è abbastanza difficile. 800240024 oppure 349 238 6666. Gente che magari è ospite in questo momento e ha dei consigli pratici per, insomma, delle regole di buona ospitalità. Quando si parlava l'altro giorno di stare ospiti, ci è venuto in mente che c'è una sorta di pratica, la chiamerei così, o un modo di viaggiare vero e proprio, che consiste nello stare ospite a casa di persone. È una roba ormai che esiste da anni, quindi la si conosce, non è che la scopriamo noi. Si chiama couchsurfing, che letteralmente vuol dire surfare sul divano. Cioè, surfare sul divano, passare da un divano all'altro. E quindi abbiamo chiamato quello che è, attenzione, Vittoria Mussini me l'ha presentato come l'ambasciatore del couchsurfing in Italia. Ed è Maurizio Mangano. Pronto, Maurizio? Ciao a tutti, buongiorno agli ascoltatori. Buongiorno, ah, proprio ti presenti Maurizio, subito, pronti via agli ascoltatori. Maurizio, senti, io sono sul sito del Couchsurfing in questo momento e c'è una tua foto, peraltro molto carina, con la tua barba bianca e un maglione rosso. Mm-hmm. Non capisco però, perché di fianco alla tua, al tuo profilo ci sono quattro simbolini, che sono un divano, una quattro mani che si abbracciano. Ah, sono quattro mani che si abbracciano, quelle. Poi c'è un simbolino verde e una bandierina. Mi spieghi, la bandierina innanzitutto cosa significa? Allora, bandierina significa che io sono un ambasciatore di Couchsurfing. Ci sono diversi livelli di ambasciatori, City Ambassador, uno per ogni città o per le più grandi città, uno o più per ogni nazione. Io sono uno dei sette country ambassador italiani di Couchsurfing e poi ci sono una serie, 15 circa, global ambassador. Maurizio, scusami, io l'ho detta male, di tu che cos'è il Couchsurfing? È andare in casa della gente e stare ospiti sul divano? Sì, più o meno quello che hai detto tu, è andare a casa delle persone, essere ospiti oppure ospitare persone. Non è prevista la reciprocità in questo sito, quindi non è un sito tipo quello di scambio case, per cui io vado a casa tua mentre tu vieni a casa mia. Ah, semplicemente tu puoi ospitare senza dover poi ospitare indietro. Esatto, tanto cioè, per farti un esempio, io ho ospitato in 3 anni, sono in Couchsurfing da febbraio del 2007, quindi in 3 anni e mezzo ho ospitato 510 persone. In casa tua? Sì, ospiti stanno per arrivare. Adesso. Sullo stesso divano? Io ho la fortuna di avere una casa relativamente grande, per cui il mio divano di fatto è un vero letto, perché c'è una stanza per gli ospiti. Quindi, rifacendomi un po' a quello che dicevi tu prima, le regole di casa mia sono leggermente differenti. Nella loro stanza possono fare qualunque cosa loro vogliono, quindi lasciare tutto il disordine che vogliono. Nel resto della casa, invece... Nel resto della casa, essendo spazio comune. Quanto si fermano di solito gli ospiti sul divano? Ma mediamente si va dalla semplice giornata, notte, ai 3, 4, 5 giorni, a volte anche di più, ma mediamente diciamo dai 2, 3 giorni. Senti, tu ne hai ospitati oltre 500, hai detto. Sì. Qual è la cosa che ti ha dato più fastidio che qualcuno ha fatto in casa tua? Un mio ospite che arrivava a Milano in autostop in estate, che puzzava e che ho dovuto spingere più di una volta... per convincerla a farsi una doccia. Ah, credevo fuori di casa. E invece la cosa più carina che hanno che ha fatto, cioè una cosa inaspettata, che uno arriva e, come dice mia nonna, non arriva magari a mani lunghe, ma ti porta qualcosa oppure... Normalmente nessuno arriva a mani vuote, qualcuno arriva sempre con qualcosa. Nel mio profilo, ad esempio, c'è scritto che io adoro il Piccolo Principe, per cui normalmente vengo omaggiato del Piccolo Principe nella lingua di provenienza. Quante copie ne hai? Ne ho circa 37 adesso. Senti Maurizio, questa domanda te la devo fare. Tu che lavoro fai esattamente? Io ho fatto l'informatico per 20 anni e adesso mi occupo di comunicazione in un'azienda pubblica di Milano. Cosa dice tua moglie di tutto ciò? La mia compagna, non ho una moglie. La tua compagna? La mia compagna è contenta di questo. Molto spesso ospitiamo, ovviamente tutte le volte prima di ospitare qualcuno, sento anche lei, ma più per un dovere. Beh, me lo auguro. No, nel senso che lei è una persona assolutamente piacevole da questo punto di vista, è assolutamente accomodante, le fa piacere avere gente in casa, ma essendo una violinista a volte ha bisogno di studiare a casa e quindi in quei periodi non ospitiamo nessuno. Maurizio, ovviamente. Senti, scusami. Dammi tu un consiglio per un accorgimento che devo tenere in casa degli amici che mi ospitano. E se non sono di Couchsurfing non saprei aiutarti più di tanto, perché poi le regole dell'ospitalità cambiano da persona a persona anche in base a chi ospiti. Probabilmente essere carino con loro e ogni tanto magari cucinare per loro, cosa che io faccio spesso per i miei guest o che spesso i miei guest fanno per me. È un modo come un altro per mettersi in comunicazione, per dare un senso di disponibilità da un lato oppure di apprezzamento dall'altro. Okay. Una bottiglia di vino sicuramente aiuta. Maurizio, grazie mille. Guarda, se qualcuno è interessato, il sito è couchsurfing.org. Ciao e buona giornata. Ciao, grazie a voi. 800 24 00 24, oppure 349 238 6666, persone che sono ospiti o lo sono stato a lungo e che mi diano qualche buon accorgimento. Dire sempre la verità è rasserenante, però bisogna essere pronti a tutto, perché le reazioni degli altri sono difficili da prevedere. Voglio dire, se una persona che conoscete bene da domani iniziasse a dirvi tutto quello che pensa veramente, è abbastanza difficile immaginare come reagireste, no? Perché le cose meno piacevoli di solito si tengono per sé, soprattutto tra amici e parenti. È una regola del vivere comune. È solo che io ho deciso di disobbedire per un po' questa regola e dico quello che penso. Effettivamente è una grandissima liberazione, anche se a qualcuno può sembrare una vigliaccheria, e forse in parte lo è. Dalla mia parte però io ho che adesso sono pronto a sentire la verità degli altri. Perché se si vuole smettere di dire bugie bisogna aspettarsi lo stesso trattamento e accettare la sincerità che ti viene detta addosso, che ti viene buttata lì per lì. Sarebbe ipocrita fare il contrario, un po' come chi tradisce però non perdona se viene tradito, no? Non è moralmente carino. Ecco, in questi giorni, come vi dicevo, ho la fortuna di essere ospitato da Luca. Luca è un amico che fa l'architetto, però voleva disegnare giochi elettronici. È tornato dalle vacanze di recente, per cui è poco tempo che conviviamo, perché prima praticamente mi aveva lasciato la casa con le chiavi. È molto gentile Luca. Il suo ritorno mi ha fatto pure piacere. In realtà però col fatto che veniva dal clima estivo mentre io ero fisso a casa sua, mi è sembrato per i primi giorni che l'ospite fosse lui. È tornato una notte tutto trafelato, stanco, pieno di vestiti sporchi. Ci ha messo 2 ore, si è fatto una doccia, ha dormito e poi è andato in ufficio. C'aveva ancora i braccialetti di cuoio intrecciati ai polsi, avete presente? Invece me ne stavo qui, urbano e comodo sul suo divano. Mi è sembrata quindi una cosa carina, insomma, fargli un paio di lavatrici, cucinargli delle cene. Sulle prime lui l'ha presa bene, come una specie di continuazione delle vacanze. Anche per quel clima che si crea tra maschi, no? Che convivono e ritornano un po' ai tempi dell'università. Le robe tipo vivere senza orologi, fare lunghe chiacchierate notturne, giocare alla PlayStation, farsi dei fritti di paranza a mezzanotte. Dopo qualche giorno però Luca ha iniziato lentamente a impallidire. Gli ho notato anche delle borse sotto gli occhi. L'ho visto togliersi il braccialetto estivo ed è apparso sul lavandino del bagno un blister quasi vuoto di pastiglie contro l'acidità di stomaco. Era evidentemente lo shock da rientro. Solo che lui stava prendendo in ritardo per via del mio trattamento tipo camera di recompressione. La botta però gli stava arrivando lo stesso e Luca diventava ogni giorno più nervoso. Diceva che doveva andare a letto presto, parlava di riunioni, di cravatte non stirate. Che poi è vero quello che si dice sugli ospiti, non sono mica scemo, mi rendo conto che dopo un po' si diventa ingombranti. E quindi gli ho comunicato che avrei traslocato. Ieri sera, oltre a Miss Italia, per festeggiare la mia decisione di andarmene prima che Luca si innervosisse troppo, ho cucinato per tutti e due un bel branzino al sale. Il tutto accompagnato da una bottiglia di vermentino di Gallura che ho preso per lui, visto che io divento allegro già solo con la Fanta Lemon. Abbiamo chiacchierato con piacere, soprattutto perché avevo esordito dicendo che in settimana me ne sarei andato. Allora ci siamo lasciati a quei temi che tra maschi di solito non si affrontano. Insomma, qualsiasi altra cosa che non sia lo sport. E purtroppo siamo capitati a parlare della sua fidanzata. Io lei la conosco molto bene, anche perché qualche anno fa ci eravamo frequentati, diciamo così, per qualche mese. Chiaramente questo a Luca non l'aveva mai detto nessuno. Ieri però, quando è stato il momento in cui avrei potuto ometterlo, ho dovuto dirglielo. Ci sono vantaggi e svantaggi a dire sempre la verità. per Luca ieri c'è stato lo svantaggio. Ci è rimasto un po' male, sia per la vecchia storia non detta, ma soprattutto perché gli ho confessato che penso che lei, cioè la sua fidanzata, sia una giovane invecchiata male, eppure troppo precocemente, che sia disturbata e rompipalle. E nemmeno bellissima a dirla tutta, però questo era secondario. È stata dura, però sono stato felice di averlo fatto. Cioè non è che gli voglia male, al contrario, Luca è un amico, anzi, per questo direi, gli ho fatto dono con gioia della mia rinnovata sincerità. No, è che in questo periodo va così, no? L'avrete capito. L'ho preso un po' alla sprovvista, secondo me ci è rimasto proprio male. Però il fatto che io stia andandomene da casa l'ho placato. E poi il vino bianco ha effetti stupefacenti. A volte mi dispiace di essere astemio. Vabbè, comunque domani mi trasferisco da Simona. Simona è un'amica e mi ha assicurato che per qualche settimana le fa piacere avermi in casa. Ammetto che a me, in fondo, questo girovagare per le case degli amici mi piace. Mi sento un senza fissa dimora, però di lusso. Un clochard lavato e profumato, con la pancia piena e un tetto sulla testa. Mi piace non possedere alcun oggetto, essere a casa dovunque mi trovo e smetterla di dire le bugie. E poi così posso allenare le buone maniere che devo obbligatoriamente avere, ma che non sono mai state il mio forte. Devo essere cortese con chi mi ospita, devo essere gentile con chi si becca la mia sincerità, paziente con chi dirige la sua vita, nella quale per qualche tempo mi sto inserendo. Devo ridurre al minimo il fastidio che posso dare, e questo è un bel esercizio. Anzi, facciamo così. Simona, se mi stai ascoltando, sappi che ce la metterò tutta, pur di essere un ospite gentile e poco ingombrante. E prima che tu senta la puzza, me ne sarò andato. Domani, quindi, cambio casa. E in un certo senso, è come se cambiassi ancora vita. Oh, stupid pride, I just can't hide the holes inside my heart. Cause I need you here with me. Oh, I wish that I could take it back. I'd go back to the start and tell you all the things that I feel. Sei mesi, quasi nomade, anni fa tra amici a Milano e valigie sempre piene. Baci, Raffaella. 349-238-6666, 800-24-0024, se siete stati ospiti, se magari siete ospiti in questo periodo e avete consigli da dare, un po' come Marco. Marco su Facebook, c'è un profilo Facebook, è Matteo Caccia, io sono qui. Marco, ogni volta che sono stato ospite a lungo, parlo di mesi, mi sono sempre comportato normalmente, come se stessi a casa mia, evitando solo di lasciare la biancheria sporca in giro. Credo che in alcune situazioni il comportarsi normalmente, senza cercare di essere di troppo, sia la soluzione migliore. Ancora, Simona, secondo me l'adattamento alle regole della casa ospitante è fondamentale. Io non farei mai come se fossi a casa mia, perché non è casa mia. Dare un grande aiuto e alleggerire il quotidiano di chi ti ospita è il miglior ringraziamento. 800240024 349-238-6666. Dopo la borsa, io sono qui. Io sono qui. E di nuovo cambio casa, di nuovo cambiano le cose. Di nuovo cambio luna e quartiere. Sta roba, non ho capito perché l'avete velocizzata proprio. Cioè, un pezzo magnifico di Ivano Fossati, certo, non proprio su, diciamo, come pezzo, come molti pezzi di Ivano Fossati, però è di nuovo cambio casa, visto che domani sono da Simona. Me la fai risentire ancora? Vestito per l'amore, cambio donna. Però ce l'ha il suo ritmo così, giusto? Però fammi sentire invece quell'originale, ce l'abbiamo quell'originale. Beh, effettivamente, ma però Fossati è onesto da questo punto di vista. Una volta ho visto un suo concerto e lui si è messo a raccontare una storia legata alle sue canzoni d'amore. Sosteneva che a un certo punto qualcuno l'avesse accusato di aver scritto canzoni d'amore che finivano tutte male. Allora lui si è messo a cercare nell'archivio di tutti i pezzi che aveva scritto e diceva che ogni tanto gli capitava di trovare qualcosa non di, diciamo, di allegro, però di leggero, ma bene che andasse, comunque in quelle canzoni alla fine pioveva. 800240024 349-238-6666. Di nuovo cambio casa, quindi ho bisogno di qualcuno che sia stato ospite a lungo tempo e che mi dia qualche dritta. Luisa, ci è arrivato un messaggio di Luisa sul profilo Facebook. Luisa deve essere una di quelle precise. Difficile stabilire regole universalmente valide. credo. Dipende anche dal tipo di ospitante. Io quando mi ospitano, anche se si tratta del mio migliore amico, cerco di capire nelle prime ore che tipo di padrone di casa sia. Se gli fa piacere essere aiutato in cucina o preferisce non avere gente in mezzo ai piedi. Idem mentre prepara la tavola o fa quelle cose che servono a tutti, per esempio la spesa. Insomma, gli offro il mio aiuto e insisto un po'. Se accetta bene, se no lascio fare altrui, lascio fare a lui. Poi gli offro una cena, gli faccio una spesa con cose buonissime senza avvisarlo e ogni 3 giorni gli do una tregua serale per la mia presenza. Per esempio, me ne vado al cinema da sola. 800240024 349-238-6666. Esperti di ospitalità, andiamo a Tony, da Tony della provincia di Lecco. Pronto, Tony? Buongiorno, pronto? Ciao, buongiorno, come stai, Tony? Bene, bene, bene. Voi? Dammi pure del tu. Te? Bene, grazie. Dove sei, Tony? In una falegnameria? No, no, no. Adesso sono nel mio camioncino che sto lavorando. Che lavoro fa? Che lavoro autista, fai? Autista. Autista, quindi porti in giro roba col... frutta. Qualsiasi roba? No, no, frutta. Ah, scusami, frutta. Quindi fai levatacce? Sì. Ma sei al mercato adesso però, Tony? No, sono qua nel giardino che stanno caricando, stanno facendo un po' di casotto, ma va bene. Ok, raccontami quando sei stato ospite. Allora, nel 1996 fino al 99. Per 3 anni, quindi? Per 3 anni, beh, sì. Direi che già ospite, un bel record. Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Sono stato ospite di una famiglia fantastica in Calabria, provincia di Cosenza. Io sono nativo albanese, quindi appena arrivato qua, il figlio di questa famiglia faceva il geometra, è venuto giù a paese nostro a aiutarci. Quando io sono poi venuto in Italia, mi ha ospitato a casa dei suoi. Per tre anni, sì. Ma tu avevi una stanza però, Tony? Sì, sì, sì, sì, sì, avevo una stanza col mio lettino. La signora della casa cambiava le lenzuola, mi lavava i panni, come se fosse suo figlio. Un bed and breakfast quasi. Ma tu cosa facevi per sdebitarti? Allora, lavoravo col figlio, ho iniziato a lavorare il muratore, che il figlio faceva il geometra, no? Ah, ok, giusto, certo, quindi, geometra bisogna il muratore, sì, mi sembra. Quindi mi aggiustavo un po' e alla fine mi sono trovato benissimo, però anche un po' in imbarazzo. Ah sì? Quando? Quando, per esempio, parlavano di cose loro, quando tu sei lì ospite, che parlano di affari loro, che tu rimani magari andare a cena dei zii. Sì. Per esempio, o dal fratello, che ne so io. E tu intervenivi? Cioè, dopo 3 anni, però, dai, anche tu avevi diritto di dirla tua, no? Sugli zii o sul fratello. Sì, sì, sì, sì, ma no, era gente alla buona, gente non presuntuosa, ospitale. Tony, scusami, il tuo nome vero qual è? Anthony. Anthony? Sì. Ma è albanese, Anthony? Sì. Anthony senza la Y finale. Ma scritto Anthony, no, però. No, con la E di Empoli. Ah, proprio con la E, Anthony. Sì, sì, sì, sì. Che sembra una tamarrata, invece no, è proprio Anthony. No, no, Anthony, è proprio il diminutivo Tony. Tony, chiaramente. Tony, quando parti e dove vai adesso con la tua frutta? No, no, adesso vado a casa, basta. Ah, basta. Alle 5 del mattino chiudo camion, buonanotte. Giustamente. Dove lo porti? Dove la porti? Da dove a dove? Allora, beh, nel raggio di 30 km dal magazzino centrale. Ok. Tony, senti, ti ringrazio molto e fai una buona giornata. Altrettanto voi, complimenti per la trasmissione. Grazie, ancora del voi. Ma... buongiorno. Ciao Tony, grazie. Buongiorno. Mi dà del lei, del voi. Però simpatico Tony, andiamo a Roma da Valeria. Valeria? Ciao, buonasera. Ciao, buonasera. Sono Valeria, ciao. Io sono Matteo, bene, quindi... Allora, io sei la persona ho che cercavo. Ospitato per 4 anni. Scusami, hai ospitato per 4 anni? Ho ospitato per 4 anni. Chi hai ospitato, Valeria, per 4 anni? Un compagno dell'università, rifugiato politico di un paese africano, re nel suo paese, che si ritrova senza casa. Io convivevo da qualche mese con il mio attuale compagno, che è un uomo che ha il doppio dei miei anni, sì. Mega manager di un'azienda, fresco di divorzio. E ci siamo trovati con questo mio caro amico per qualche mese a casa ed è rimasto 4 anni. Ma lui era un tuo caro amico o semplicemente lo è diventato per i 4 no, anni di convivenza? Diciamo che eravamo molto legati ai primi anni dell'università. E abbiamo condiviso anche dei suoi momenti dolorosi. Lui ha lottato per i diritti civili in un paese della Repubblica Democratica del Congo, per cui okay. Un ragazzo che ha subito tante cose, un po' più grande di me. Però sicuramente vivendo insieme non siamo diventati grandi amici, ma fratello e sorella con tutto quello che compete. Adesso lui dov'è, Valeria? Così. Adesso lui dov'è, Valeria? Che fine ha fatto? Come? Che fine ha fatto lui adesso? Dov'è? È tornato in Africa, è andato a vivere in Mozambico. Ah. E è tornato a gennaio, doveva stare una settimana in Italia, e invece è rimasto 2 mesi. A casa tua? Solito. Ah, vabbè, ma è un'abitudine allora, però. Sì. Senti, lui ti faceva dei regali, ti portava qualcosa? Beh, no, anche perché non aveva una grande disponibilità economica. Vabbè, però magari un mazzo di fiori da Naiuola, no? No, diciamo che mi aiutava con i cani, questo sì. Lui ha imparato ad amare gli animali a casa mia e adesso che è tornato si è molto affezionato poi a mio figlio, di un bambino che tra 2 giorni compie 1 anno, per cui era proprio piccolo a gennaio e... È un fratello, però non è stato facile. Io Beh, immagino, 4 anni. Comunista, no? Vogliamoci tutti bene, siamo tutti fratelli. Invece poi Ma infatti, perché lì, perdonami Valeria, scusami la schiettezza, però sai come fa parte del gioco. Perché immagino che ci sia anche una parte, diciamo, quasi di, passami il termine, di pietà nei confronti di una persona che sta così male, giusto? E quindi dici, questo se non l'aiuto io, chi l'aiuta? Poi però 4 anni sono 4 anni, quindi avrete litigato diciamo una volta. All'inizio poteva essere così, in parte io poi una formazione familiare, abbiamo sempre ospitato in casa persone con problemi, ragazze straniere, quindi anche l'affido, perciò ero abbastanza abituata a questa cosa, però poi alla fine diventa anche veramente un rapporto di famiglia, a me in certi momenti... Dimmi che avete litigato, dimmi che l'hai mandato a cagare un giorno Valeria, dai. Sì, quando sono rimasta incinta. Quando sei rimasta incinta? In quel momento lì? Sì, perché mi davano fastidio gli odori e lui si lavava però non come avrei voluto io. Cioè come avresti voluto? Non l'ho proprio rivoltato. Perché scusami, l'ospite ha anche diritto di lavaggio sul proprio ospitato? Secondo me in certi momenti sì, anche perché lui era il classico maschio che era cresciuto lontano dalla famiglia, lontano dalla mamma, dal papà, la mamma era stata uccisa, per cui aveva bisogno di una presenza femminile che lo... Cioè hai pensato tu Valeria. Senti, ti ringrazio moltissimo e in bocca al lupo per il tuo bambino. Sì. Ciao. Ciao Valeria, grazie. Andiamo a Roma da Stefano ancora. Pronto Stefano? Ciao, come va? Bene, tu come stai? Molto bene. Tu sei ospite adesso, leggo qui. Io sono ospite adesso nella stessa casa dove sono stato ospite 15 anni fa. E come mai? Perché il padrone di casa, che è un amico, ha una casa in campagna che è divisa in 2 abitazioni. Una è casa sua, è la sua casa storica, diciamo, dove lui è sempre vissuto. E poi c'è una piccola casetta che invece non è utilizzata, ovvero non è stata utilizzata, adesso è utilizzata da me. Siccome poi lui recentemente ha avuto una bambina e la sua compagna, la mamma della bambina invece non vuole assolutamente vivere in campagna, vuole stare in città, allora lui in questa casa praticamente non c'è mai. Cioè quindi è casa allora tua? È ormai praticamente sì, però io gli curo un po', c'è un bel giardino, insomma cerco di tenerlo un po' curato. Ma Stefano, perdonami, ma perché tu non hai una casa da 1 anno e mezzo? Io non ho una casa da 1 anno e mezzo perché questa casa dove sono ospite mi piace da morire. E allora... Che paraculo che sei! Ci sto benissimo. Okay, e dimmi cosa fai per sdebitarti. Allora, di curi il giardino. L'ultima cosa che ho fatto è stato pulire il tetto dagli aghi di pino, perché ci sono diversi pini intorno e allora c'era il tetto pieno di aghi di pino, non veniva pulito da 2 anni. Lavoroni proprio Stefano, ma non so, un muro gliel'hai tirato su? Guarda, ho verniciato dentro la casa dove sto io, ho rifinito tutte le pareti. Ah, ok, perfetto. Dammi un suggerimento invece, ma a te non va bene perché tu vivi da solo di fatto lì, quindi non mi puoi dire qualcosa. Però quando lui viene io gli faccio trovare le cose come piacciono a lui, infatti secondo me la regola aurea per l'ospite è fai come se fossi a casa sua, cioè a casa del padrone di casa. Stefano, grazie mille. Grazie a te. Ciao, alla prossima. Credo che ci sia solo da imparare da Stefano. Ringrazio lui, ringrazio però anche Vittoria Mussini, nonostante il suo torcicollo. Ringrazio Paolino Corleoni che è tornato qui da noi, Alessandro Genovesi e Tiziano Bonini. Sono le 16:45, io sono Matteo Caccia e oggi io sono stato qui. Ho mangiato 3 coppe del nonno, ho preparato la valigia per traslocare a casa di Simone, ho detto 7 verità, ma soprattutto sto aspettando che inizi la Champions League. Domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi dove siete?